video dato una rotta di botte. Continuava a sanguinare, mi ha sporcato tutto il cane. Mio padre, non c'è più quel feeling. Ah, il tuo vestito alla romana. Vada io, io ti e poi ti ama. Del carbone, ti ho colpita col bastone per rubare la tua misera pensione. Poi mi ha preso l'emozione, sono un uomo camionista, e vado io, ti tengo sotto tiro. Della Porsche, non venirmi a raccontare che tu sei Babbo Natale, sei solo un piccolo personaggio.